Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che ormai vi accompagna quotidianamente da oltre un anno. A quest'ora della mattina sono circa le 6.45 e in replica le 20.45. Subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ricorderete che alcune settimane fa abbiamo dedicato un po' di spazio al problema dei disabili mentali. Lo abbiamo fatto a seguito di alcune segnalazioni di radioascoltatori. Ebbene, dopo quelle trasmissioni sono giunte decine di altre mail in redazione che ci inducono con piacere, lo dico, a trattare ancora di questo tema, perché in Italia le famiglie che hanno a che fare con disabili mentali sono migliaia. E tra le tante lettere, ma vi renderete conto che nei prossimi giorni affronteremo altri temi con altri radioascoltatori, abbiamo scelto oggi quella che ci è stata scritta da Vincenza Maria Minotti, che io ringrazio e alla quale do il buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto la ringrazio ovviamente della sua lettera e come prima domanda le vorrei fare questa. Perché lei ci ha scritto? Cos'è che l'ha spinta a scrivere a Radio 24? Beh, mi ha spinto innanzitutto il mio problema personale, ma anche di tanti altri. Io conosco, tante famiglie con questi problemi, perché comunque ci riuniamo ogni primo mercoledì del mese, faccio parte dell'associazione dell'Aresam e ne sento veramente tante. Diciamo che il mio problema relativo a tanti altri è minore, perché sono veramente dei casi. Ci sono comunque dei ragazzi che vanno al centro diurno, che poi stanno benino, però trovano una difficoltà nell'inserimento lavorativo, perché comunque i datori di lavoro non, ecco, e poi su non questo prendono questi ragazzi, anche se c'è comunque una percentuale che devono prendere dalle liste dell'ufficio provinciale del lavoro protette. Però loro non rispettano queste regole, perché comunque questo è un disturbo che fa un po' comunque paura. Lei dove vive? Io vivo a Roma, nella periferia. E si rende conto di questa difficoltà, di integrazione? Sì, parliamo continuamente, lo psicologo stesso che dirige il centro di uno dei centri diurni. Chiede a volte aiuto a noi, dice: se voi conoscete delle aziende, delle piccole officine, perché questi ragazzi comunque, dei ragazzi che stanno benino, che potrebbero comunque lavorare sempre protetti fra virgolette con l'aiuto loro, seguiti, ecco, comunque non abbandonati, perché comunque è chiaro che loro non possono competere con altri lavoratori. Ecco, io a questo proposito la fermerei un attimo per farle ascoltare questo trailer. E qui la cooperativa 180? Che è stato? Senta, io sono cresciuto in fabbrica, non si fa la spia. Bello, l'hai fatto tu? Era che lavori con i matti, con i pazzi, con i metacassoni, con la roba lì. Sono dei lavoratori anche bravi. E li volevi anche cattivi? Sono Fabio, ex degente, trasversale, ben integrato, interista e cadente. Scusate, ma a voi non piacerebbe fare un lavoro vero? Siamo matti, mica scemi. Beh, il lume. E allora perché ho un appalto nel centro di Milano? Abbiamo un appalto! E so che ce la metterete tutta per essere all'altezza di questa sfida che il mercato ci pone. I ragazzi hanno finito il legno, c'erano quegli scarti. Scarti? Noi facciamo tutto con gli scarti. Questa è una cooperativa di scarti. Bravo, non licenzio tutti gli operai. Cioè, lei vuole mandare via me e fare presidente Robby l'autistico? Ecco, questo che abbiamo ascoltato era un frame tratto dal film Si può fare, diretto da Giulio Manfredonia, che firma una sceneggiatura insieme a Fabio Bonifaci, che racconta una storia di esperienza, di speranza, attraverso la sfida di Nello, un sindacalista interpretato da Claudio Bisio, che nella prima metà degli anni Ottanta viene mandato in una cooperativa di ex malati mentali dimessi dai manicomi in seguito alla legge Basaglia, un film profondo. Lei lo ha visto questo film, Minotti? No, ne ho visto qualcuno, ma questo titolo no, non credo, no, non l'ho visto. Ecco, io ovviamente invito tutti i radioascoltatori a vederlo, questo film, perché chiaramente parla proprio di ciò di cui la signora Minotti ci stava parlando, la difficoltà di integrarsi nel lavoro. Minotti, passiamo ad un altro tema che lei ha affrontato nella sua lettera, vale a dire, che a me inquieta molto, le sovvenzioni che a suo giudizio vengono date alle cliniche private che non fanno altro che cronicizzare i malati. Traduco in altre parole, questo diventa anche un business per le cliniche private. Sì, sì, senz'altro. Ecco, ma questo secondo lei con quali compiacenze? Guardi, con quale compiacenza adesso io non voglio entrare nel merito, non saprei. Io so che noi abbiamo fatto anche delle manifestazioni davanti alla Regione Lazio all'inizio della legislatura, quando era presidente il presidente Storace, per evitare che dessero queste sovvenzioni, perché ci rendiamo conto che queste cliniche comunque sono, danno i farmaci, stanno lì e basta, non è che... Per me sono migliori quelle strutture pubbliche, diciamo, se i CSM avessero più personale, perché i progetti che fanno sono ottimi, però poi si perdono per sempre per mancanza di personale, perché loro non è che si limitano comunque a dare dei farmaci, cercano di fare un progetto nel loro, diciamo, meglio che possono. Ecco, però noi effettivamente con questa mancanza di personale di ecco lei ricorderà che nelle scorse settimane noi abbiamo avuto ospite un dirigente della struttura pubblica romana, e ci siamo proprio resi conto, anche attraverso il colloquio che lui stesso ha avuto, il confronto con i radioascoltatori, che la struttura pubblica funziona e funziona bene. Certamente ci saranno anche in questi casi delle eccezioni, ma non tutto ciò che è pubblico è maledetto e non tutto ciò che è privato è benedetto. In questo caso, mi corregga se sbaglio, credo che molto dipenda proprio dalla propensione dell'uomo ad affrontare certe malattie, cioè del medico che deve compenetrarsi molto in chi si trova davanti, o sbaglio? Sì, sì, esattamente. Ecco, quindi io invito ovviamente in questo modo, attraverso la mail che ripeto, unabusoalgiorno@radio24.it, i radioascoltatori a segnalarci ovviamente casi positivi di confronti medici disabili mentali. Un'altra cosa con lei, Minotti, vorrei affrontare. Lei dice: parliamo della necessità di funzionamento dei centri di salute mentale anche nei giorni festivi, o ancor meglio 24 ore su 24, che qualcosa, mi rendo conto che è una... Ecco, ma è qualcosa di cui in realtà noi abbiamo già parlato nelle scorse settimane. No, non è una chimera. Secondo me il servizio pubblico è tale se è in grado di garantire il servizio, appunto, in continuazione, altrimenti è un mezzo servizio pubblico. Ecco, mi parli un po' della sua esperienza. Come vedi, io non le ho nemmeno chiesto, perché non mi interessa che tipo, diciamo così, di malattia mentale lei ha in famiglia, qual è il congiunto e quant'altro, perché non mi interessa questo, ma vorrei capire qual è la sua esperienza su questo punto. Ma la mia esperienza, io mi sono trovata soprattutto, diciamo, nella fase di gravità della famiglia, della malattia di mio figlio, non recentemente, per fortuna adesso sta, diciamo, un pochino meglio, a dover, diciamo, essere assistita di domenica o anche nelle altre feste, e che però non c'è nessuno, uno chiama al 118, arrivano la polizia municipale, arriva la polizia, c'è un medico di guardia che non è assolutamente, sarebbe assolutamente indispensabile che il DSM funzionasse nei giorni di festa, perché poi i giorni di festa per questi ragazzi sono quelli più pesanti anche. Assolutamente, certo. Noi abbiamo sentito nelle scorse settimane il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Roma, che ci ricordava proprio come ormai da anni le assunzioni siano bloccate e le risorse sempre inferiori agli anni precedenti. Signora Minotti, vorrei congedarmi da lei con un'ultima domanda. Suo figlio, visto che lei appunto ci ha rivelato che tipo, diciamo così, di legame l'ha portata a scriverci, in questo momento lavora oppure no? Mio figlio in questo momento lui non lavora, per fortuna mio marito ha una piccola azienda, diciamo, e lui quando si sente va a dargli anche una mano, quando si sente, non tutti i giorni. Certo. È un po' così, diciamo, lasciato così, come dire, alla buona volontà. Lui comunque sarebbe in grado di fare delle cose, ecco. Ecco, allora io con questo... È un ragazzo intelligente, sa usare il computer, diciamo, sarebbe in grado di fare delle cose. Ecco, come spesso si dice con un termine che può sembrare rococò, ma in realtà fotografa bene, è una persona, come tante altre, diversamente abile. Vuol dire che ha sviluppato delle capacità diverse da quelle che sono chiamate le persone normali. Magari loro hanno dei limiti, perché ecco, magari loro in quel giorno che non si sentono incontrano una persona che secondo loro per li carità ha guardati un po' male, così secondo la loro... Per carità, signora Minotti, guardi che... Sono così, quindi ci vuole tanta pazienza. Guardi, signora Minotti, che le persone cosiddette normali di limiti ne hanno... Non ha idea di quanti. Lo so, io ho lavorato per tanti anni e lo so. Allora, con questa riflessione finale, io ringrazio la signora Minotti, ringrazio in regia Peter Bescapé e in studio Laura Faggi. Roberto Galullo tornerà su questi argomenti. Vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.